Disumano, Dio fa. Bella storia. Sangue misto, produzione, disumani, livello 57. Testa strano, occhi che mi guardano, mi sento disumano. C'è qualcosa di nascosto fra le righe, non lo vedi? Troppa gente finta, questo mondo non sta in piedi. Disumani, capite? Sotto questa calma piatta noi mettiamo dinamite e là. Boom boom, sorpresa, cicci nella casa armato di detonatore. La mia direzione mette tutto in discussione. Su sentieri che hanno un cuore, sono un cercatore. Amo il rischio che mi butta sul lago. Amore, sicurezza, anche quando ci ha pagato. Sento il sogno che mi guida quando intorno tutto è vago. Non c'è spago dentro gli schemi. Dico solo soluzioni, non esistono problemi. Quando vivi la tua vita intensamente non si crema. Cammino per la strada, c'è nella testa strano. La gente che mi guarda, io mi sento disumano. Ma tu c'è web, da me, sono disumano. Mi sciolgo, disumano tra gli umani in questo mondo. Che quando azzecchi il microfono in mano ti mando la vibra che porta lontano. Che dentro il cervello succede un casino. Se si apre la gabbia ed è fuori il bambino. Un nuovo essere intorno al mondo. Mezzo San Francesco Cine e mezzo strondo. Giovane cantante un po' fuori corso. Canto una generazione senza rimorso. Ah wow wow wanna disumani crew. Siamo sulla nostra onda, lo show di Matthew. Ah wow wow wanna disumani crew. Nah, state attenti altrisco e non lo avanti più. Perché quel che passa bene, shh, lascia stare. Ho avuto tempo senza pretese per studiare. Ora è il momento per fare quello che si crede stare bene. Ora è il momento che scrivi. Cammino per la strada, c'è nella testa strano. La gente che mi guarda, io mi sento un disumano. Ma tu c'è web, c'è web da me. Sono disumano, la sala c'è. Ma tu c'è web, c'è web da me. La sama è che io sono strana, dice te ne vedi. La storia che spende nasce una luce, va lontano. Crea un gruppo di amici che si porta piano e non lo ferma nessuno. Intanto qualcosa di nuovo è uscito, tipo quel sole non è mai tramontato e mi ha seccato un po' abbagliato. E sono rimasto un po' stranito, ma un segno in me chiaro. L'ha lasciato in giri, disumano, salta all'occhio. Sempre in accordo, senza rispetto per tutti quelli che ne osano, ne rischiano e se ne infischiano. Ma il disumano si muove bene, in cerca di una zona dove tutto è permesso. Così diverso, dove lo stile di vita non è mai lo stesso. E si muove al di sopra come un'ombra oscura. Ogni mossa è vana quando l'aria in giro è disumana. Cammino per la strada, c'è nella testa strano. La gente che mi guarda, io